Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Mi sembra un po' fuori luogo, è come se andassi in Vaticano a parlare di come funziona il nuovo Voyager. Ecco, non, nel merito rispetto ogni tipo di valutazione e di considerazione che venga dalla CEI o da altri. Se vuole però le parlo del Voyager. Persino del Voyager può parlare Matteo Renzi nella sua competenza complessiva. Diciamo, questa era la risposta che ha dato oggi a un bacchettamento, lo vogliamo chiamare, un rimprovero della CEI, dei Vescovi Italiani, che gli hanno detto basta slogan, pensi ai lavoratori. E questa era la risposta che non si è fatta molto attendere di Renzi. E poi Renzi ha detto, fra le altre cose, oggi in un intervento di cui parleremo poi con Marchionne a Detroit, alla sede della Fiat Chrysler, ha detto il reintegro, cioè l'articolo 18, crea lavoratori di serie B. Quindi continua un po' a riconfermare questo concetto. Potete esprimere le vostre opinioni su questo e su altre cose che vi racconterò questa sera qui in diretta al 349-238-6666, questo è il numero dei messaggi, sms, oppure c'è sempre la pagina Facebook Effetto Notte per i vostri commenti. E c'è un attacco durissimo di Della Valle a Renzi che vi dirò tra poco. Renzi a Detroit, Marchionne dice appoggio le riforme del Premier, dà un indirizzo chiaro, e Renzi dice in Italia ce la faremo come ha fatto Chrysler, e risponde ai vescovi che lo bacchettano. Ed è di pochissimo fa invece l'attacco di Diego Della Valle, che dice Renzi è in tilt, non ha mai lavorato, quindi non può parlare di lavoro. Che ne pensate di questa dichiarazione di Della Valle? ISIS, via libera del Parlamento di Londra, aerei britannici al fianco di americani e francesi per bombardare le postazioni dell'ISIS in tutta Europa. Massima allerta contro possibili attentati. Lo scontro tra De Magistris e i magistrati. Dopo la condanna, il sindaco di Napoli dovrebbe essere sospeso. L'Associazione Nazionale Magistrati parla di parole offensive da parte dell'ex collega. Economia accelera quella americana, il PIL in rialzo del 4,6%. Venezia in festa, George Clooney e la futura moglie Amal sbarcano in laguna, il sì pare sarà nelle mani di Walter Veltroni lunedì. E poi tecnologia, l'iPhone 6 è in Italia, code ai negozi di Apple Store, il blitz di giovani di destra che dicono vogliamo svegliare i giovani, ma il modello Plus intanto va a ruba. E partiamo quindi dalla visita di Renzi, come dicevo, nel suo viaggio americano da lunedì, che gira per gli Stati Uniti, oggi a Detroit nello stabilimento di Fiat Chrysler, e del suo incontro parliamo con l'amministratore delegato Marchionne. Renzi camicia bianca, maniche arrotolate, naturalmente Marchionne col suo immancabile maglione blu notte. Il premier ha iniziato la visita recandosi nel centro stile, che è la linea di montaggio dei nuovi modelli. Nel corso della visita non sono mancati, come avete sentito prima, i riferimenti a quanto accade a Roma, sia replicando le parole del segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, che aveva detto, aveva invitato il Premier a ridisegnare l'agenda politica lasciando da parte slogan e promesse. E poi si è concentrato Renzi sui temi della visita. Fiat è un'azienda storica, ha spiegato, credo che oggi sia una grande azienda con capacità globale, questa è una scommessa che ci piace, l'idea del Made in Italy che vogliamo supportare e difendere. Ma sentiamo anche cosa ha detto Marchionne. La sfida che è davanti non è da tutti, tutti i commenti, anche la CEI, tutti quello che abbiamo sentito anche stamattina, giornalisti che scrivono articoli contro CEI. È un discorso molto, molto difficile da fare in Italia, io ho assorbito un certo numero di critiche dal sistema italiano e a dire la verità me ne sono fregato. E credo la cosa importante del Presidente, che deve fare altrettanto, perché l'agenda che ha davanti è un'agenda enorme. Il Paese veramente è da ricostruire e bisogna cominciare oggi a farlo, e credo che non dobbiamo condividere le metodologie di questo cambiamento. Questa è la scelta sua da Presidente del Consiglio, io faccio il mio mestiere, lui fa il suo. Ma la cosa importante è avere il coraggio di andare avanti, senza farsi intimidire, senza farsi impressionare da altri. La cosa importante è sapendo che dal punto di vista di equità e di giustizia stiamo facendo le cose necessarie per il Paese. Solo questo mi interessa. Questo insomma l'apprezzamento molto molto consistente di Marchionne nei confronti di Renzi, molto esplicito. Poi ci collegheremo direttamente, come ha fatto in questi giorni, con gli Stati Uniti per avere qualche dettaglio in più. E ora il dibattito sulla riforma del lavoro, vi dicevo dell'intervento dei Vescovi Italiani. Basta slogan, Renzi ridisegni l'agenda politica mettendo come priorità la famiglia, il lavoro, i giovani, la scuola, ad esprimere preoccupazione sull'operato di Palazzo Chigi e la conferenza episcopale italiana. La CEI punta il dito anche sulla riforma del lavoro. Il dibattito su articolo 18 sì, articolo 18 no è meno centrale e io vi vedo troppe bandiere che sventolano, dice il segretario generale Monsignor Galantino. Ai vescovi, replica il vice segretario del PD Guerini, le parole della CEI sono importanti e il governo sta lavorando per rispondere con i fatti, governo che secondo il ministro del lavoro Poletti non rischia sul Jobs Act. Abbiamo un testo che già nella formulazione attuale ha avuto un consenso largo, quindi io credo che possa procedere. Faremo una riforma fatta bene che sarà degna di questo nome, conferma da New York il presidente del Consiglio Renzi. No al prendere o lasciare, commenta però dal sindacato il leader della CGIL Camusso. Abbiamo detto tante volte, ci pare che il tema dell'unificazione del mercato del lavoro nel nostro paese sia molto importante e che non si può fare creando nuovi dualismi. Una mediazione possibile, commenta l'ex segretario del PD Bersani. A prendere posizione sull'articolo 18 è anche il presidente della Camera Boldrini, che dice non si fa crescita erodendo i diritti di chi ancora non ce li ha. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di lavoro, vi dicevo la dichiarazione che è arrivata poco fa da Diego Della Valle, patron della TOZ, che ha detto Renzi è in tilt, non ha mai lavorato, quindi non può parlare di lavoro. Cosa ne pensate di questa dichiarazione così forte di Della Valle? Potete scriverlo sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i messaggi al 349-238-6666. Ma spostiamoci all'estero con la lotta all'ISIS. Il Parlamento britannico oggi ha approvato la mozione del governo Cameron che autorizza i raid anche da parte della Gran Bretagna contro l'ISIS in Iraq. Maggioranza schiacciante, 524 voti a 43. Londra quindi si unisce a Stati Uniti, Francia e Danimarca. Nel quarto giorno di bombardamenti contro l'ISIS, con quattro carri armati distrutti in Siria e nuovi attacchi in Iraq che hanno sfiorato anche la capitale Baghdad, la coalizione costruita dagli Stati Uniti ottiene un nuovo cruciale appoggio con il via libera di Westminster all'attacco contro i terroristi sul suolo iracheno. Il tutto mentre anche la Danimarca ha annunciato la sua partecipazione attiva alla coalizione con 7 F-16. Ma secondo quanto riportano le agenzie di stampa, le milizie del califfato starebbero continuando ad avanzare verso la città di confine siriana di Kobane, costringendo i curdi alla ritirata. In queste ore in furia la battaglia al confine tra Siria e Turchia. Secondo Reuters i terroristi starebbero anche cambiando tattica, usando mezzi più leggeri quali le motociclette per spostarsi, diminuendo l'uso dei cellulari intercettabili e piantando le loro bandiere non più solo sugli edifici di comando ma sulle case civili. Di ISIS ha parlato anche il premier britannico David Cameron intervenendo a Westminster. The question before the House today is how we keep the British people safe. Cameron ha difeso la necessità di intervento non solo in Iraq ma anche in Siria, una missione che durerà anni, ha avvertito. Eppure la Turchia potrebbe unirsi presto alla coalizione ora che l'ISIS preme sui suoi confini. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mentre in Siria ed Iraq vanno avanti i bombardamenti, nel vecchio continente intelligence e forze di polizia si preparano a fronteggiare eventuali ritorsioni da parte dei terroristi islamici. I raid contro l'ISIS fanno aumentare il rischio di attentati, conferma Gilles de Kerchove, il coordinatore UE dell'antiterrorismo, secondo il quale sono più di 3.000 gli europei andati a combattere sotto la bandiera nera del califfato, foreign fighters che, tornati in patria, potrebbero organizzare attacchi terroristici. Una cellula collegata allo Stato Islamico oggi è stata smantellata a Melilla, l'enclave spagnola in Marocco. Tra le 9 persone arrestate c'è anche un ex militare spagnolo che avrebbe reclutato combattenti per conto dell'ISIS. Altri 2 estremisti islamici sono stati arrestati a Londra. Anche l'Italia è in prima linea, avverte il ministro dell'Interno Alfano, ospite di Effetto Giorno. C'è una vigilanza che è stata ulteriormente elevata sugli obiettivi sensibili e dunque l'attenzione è massima e al tempo stesso occorre per senso di responsabilità dire che non ci sono delle precise minacce già individuate. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo all'estero anche per un'altra notizia. Il procuratore del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA ha chiesto l'ergastolo per Radovan Karadzic, il leader dei serbi di Bosnia, accusato di genocidio durante la guerra, in particolare per il massacro di Srebrenica. Adesso in Italia invece occupiamoci della condanna del sindaco di Napoli, De Magistris. Molti chiedono le sue dimissioni da sindaco anche in virtù della legge Severino che prevede la sospensione in caso di condanna anche di primo grado. Ma c'è chi di fronte alla polemica, sono intervenuti anche in questa polemica gli ex colleghi magistrati. E poi sentiremo proprio, dovremo raggiungere il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati che ha parlato di parole molto offensive da parte di De Magistris. Siamo all'economia americana, i dati diffusi oggi in Europa e Stati Uniti descrivono due economie che proseguono proprio in senso opposto. Distanti su molti fronti, l'andamento economico tra questi. La crescita americana accelera nel secondo trimestre, rivisto al rialzo il dato sul PIL, più 4,6% dal 4,2% della seconda stima. Si tratta della crescita più forte da quasi tre anni, grazie all'aumento degli investimenti da parte delle aziende e alla crescita dei consumi da parte delle famiglie. Un vero miraggio per l'Europa, che adesso si accontenterebbe di molto meno. I numeri raccontano di un continente stanco, che rallenta, che perde slancio e fiducia. La fiducia che per esempio perdono le imprese italiane. A settembre la flessione dell'indice è stata di 1,5 punti, il dato peggiore del 2014. E non si tratta solo dell'Italia. L'indice Eurocoin di Banca Italia, la stima sintetica della congiuntura nell'area dell'euro, registra un'altra flessione dovuta alla mancanza di fiducia di famiglie e imprese, alle deboli condizioni del ciclo industriale e al rallentamento del commercio estero. In sostanza quello che va dicendo Mario Draghi, che vorrebbe mettere in campo nuove misure da parte della BCE, tra cui l'acquisto di titoli privati e pubblici. Una mossa che non piace ai tedeschi, sebbene anche loro, oggi, debbano fronteggiare il calo della fiducia dei consumatori, più marcato del previsto. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è stato oggi un interrogatorio di 4 ore per Caroline Kostner, la campionessa pattinatrice che davanti alla procura antidoping del CONI ha dovuto rispondere di complicità e omessa denuncia nell'ambito del caso di Schwarzer, il suo ex fidanzato, che era stato trovato positivo ai test antidoping prima delle Olimpiadi del 2012. Lei non ha coperto niente e nessuno, ha affermato il legale della Kostner all'uscita dall'udienza. Parliamo adesso di voli aerei. Cade una delle limitazioni, a molti dà fastidio, dell'uso del telefonino. Questa limitazione. Da oggi in Europa non sarà più necessario spegnerlo o disattivare le connessioni, ma bisognerà però attendere che le compagnie si adeguino. Tablet, computer portatili e smartphone. Tutti questi strumenti si potranno tranquillamente usare sull'aereo durante il volo. Una nuova libertà per i passeggeri concessa dall'Agenzia per la Sicurezza Europea in volo. Fino a questo momento si potevano usare apparecchi elettronici solo in modalità aerea, ma da oggi non sarà più necessario. E se la compagnia offre il servizio Wi-Fi, si potrà anche usare internet. Ora manca solo l'adeguamento delle varie linee aeree a cui spetterà decidere se applicare o meno le nuove regole. L'uso degli strumenti elettronici da parte dei passeggeri, infatti, non dovrà in alcun modo interferire con il segnale aereo per ragioni di sicurezza. Marcella Vezzoli, Radio 24, Sole 24 Ore. E sbarca in Italia l'iPhone. A una settimana dal debutto sono già in Italia i telefonini dell'Apple. C'era chi ha fatto coda da ieri, queste scene siamo ormai abbastanza abituati. Degli studenti hanno lanciato delle uova, della farina, distribuito volantini dicendo ieri trincea e baionetta, oggi un iPhone che ti aspetta. Ne parleremo poi anche di questo, le caratteristiche, se siete curiosi di sapere qualcosa di più tardi. E poi in chiusura parliamo anche del matrimonio da favola, George Clooney e l'avvocata di origine libanese Amal, che sono sbarcati a Venezia oggi e hanno creato parecchio fermento, insomma, nella città. Raggiungeremo poi un ristoratore della zona, della città, uno dei più prestigiosi. Adesso direi che potremo salutarci tra pochi istanti, ma giusto per aggiornare chi viaggia, volevo giusto leggere qualche messaggio. Per esempio dice questo ascoltatore, l'ascoltatrice: Renzi non ha mai lavorato, e già hanno lavorato D'Alema, Bersani, Cooper, Lovendola, ma provi a leggere curricula in diretta. Ma questa è una cosa che ha detto comunque Della Valle, sulla quale vi chiedo di fare i vostri commenti se volete. Lucio da Roma: meglio un lavoratore di serie B che un lavoratore disoccupato. Questi sono gli sms al 349-238-6666. E poi Lidia che dice: i vescovi della CEI sono cittadini italiani e giustamente si preoccupano. Renzi non lo sa? Sulla pagina Facebook di Effetto Notte vedo Daniele che risponde sull'articolo 18 e dice: è una forma di esproprio, va abrogato per tutti. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, tra pochissimo ci colleghiamo con gli Stati Uniti per sentire altri dettagli sull'incontro di oggi tra Renzi e Marchionne. Sono state dette cose importanti, avete sentito l'appoggio esplicito entusiasta di Marchionne e invece il commento di Della Valle che vi dicevo ha detto Renzi in tilt, non ha mai lavorato, non può parlare di lavoro. Poi dice un ascoltatore, Della Valle dice la verità, Renzi con la maggior parte di tutti voi, non so chi si riferisca, non ha mai fatto uno straccio di lavoro. Io vi riassumo brevemente le notizie e poi appunto ci colleghiamo con gli Stati Uniti. Renzi ha detto faremo una vera riforma per il lavoro, il reintegro crea lavoro di serie B, Marchionne lo appoggia ed è chiaro e dice intanto la CEI lo bacchetta, meno slogan e pensi di più ai lavoratori. De Magistris contro tutti, non mollo, dice si dimettano i giudici, l'Associazione Nazionale dei Magistrati parla di dichiarazioni inaccettabili. Londra vota sì ai raid in Iraq, Cameron il primo ministro avverte la missione durerà anni. E poi Cluny e Amala a Venezia sbarcano tutto pronto per le nozze, dovrebbero esserci lunedì ma ancora resta un mistero. E poi tablet e smartphone in aereo, è arrivato l'ok definitivo per l'utilizzo, l'iPhone 6 in Italia, intanto code un blitz di giovani di destra. Eccoci ancora con Gerardo Pelosi che ci ha seguito in tutti questi giorni, l'abbiamo seguito a nostra volta. Ciao Gerardo, da Detroit. Buona serata a voi. Sì. Ciao Gerardo. In realtà Auburn Hills, che sarebbe 30 chilometri a nord di Detroit, dove c'è questo grande centro stile del design, il centro della alta tecnologia, dell'FCA, Fiat Chrysler Automotive, e dove attualmente il Presidente del Consiglio si trova nell'anfiteatro insieme a Sergio Marchionne per un incontro con i dipendenti dell'azienda in un faccia a faccia, dopo aver fatto una conferenza stampa nella quale, come tu hai già anticipato giustamente, Marchionne ha fatto un grandissimo endorsement alle riforme di Renzi e lo ha invitato a non farsi intimidire. Dice, anch'io ho avuto dei problemi con l'Italia, con la stampa italiana, con i poteri forti eccetera, ma me ne sono fregato, sono andato avanti, incoraggio Renzi a fare lo stesso. Poche battute anche sulla riforma del mercato del lavoro, lunedì il progetto vedrà, prenderà corpo, nessuna anticipazione ma soltanto il fatto che ci sarà una, sarà coincidente la riforma del mercato del lavoro con la legge di stabilità, perché il problema di finanziare alcuni ammortizzatori sociali, ha detto, è un problema reale che abbiamo da là. Gerardo, io ti farei sentire proprio sul lavoro allora una dichiarazione di Renzi, sentiamola. Dipende da che cosa significhi il mondo del lavoro. È naturale che noi ci attrezziamo nelle prossime ore a presentare un progetto organico, un progetto che non riguarda soltanto un articolo di uno statuto dei lavoratori, cioè di una legge che risale a 44 anni fa, ma che riguarda il mondo dei prossimi 30 anni, il mondo del lavoro dei prossimi 20 anni in Italia. Questo progetto organico arriverà lunedì, mi perdonerete se non lo presento oggi. Certo è che il modello americano ha i suoi aspetti positivi, ha i suoi aspetti meno positivi. C'è un dato di fatto, qui siamo al 6.1% di disoccupazione, da noi siamo al 12.6% di disoccupazione, questo è un dato di fatto vero. Io non sono interessato a una discussione tra correnti politiche, io sono interessato a ridurre la disoccupazione in Italia. A me non sta a cuore capire che cosa pensa l'esponente del mio partito o dell'altro partito, a me sta a cuore capire come fare a creare un posto di lavoro nel sud come nel nord e a restituire un po' di speranza ai miei concittadini. Questo è un passaggio appunto sul lavoro, Gerardo Pelosi, ma tu hai avuto modo di capire, è vero che è una frase di poco fa, se ci sono state delle reazioni alla dichiarazione di Della Valle che ha detto Renzi ha fatto il tilt, non ha mai lavorato in vita sua, quindi come fa a parlare di lavoro? No. La dichiarazione di Della Valle non era ancora arrivata insomma a noi e quindi nessuno gli ha potuto fare questa domanda. Sul discorso della CEI invece lui ha detto, beh, come se andassimo in Vaticano a parlare del nuovo progetto della Voyager, qui non è il momento di discutere di queste cose, quando saremo in Italia poi si affronteranno tutti i problemi uno per uno. è stato molto diciamo riservato sui dettagli della riforma del Jobs, ma è anche normale perché evidentemente sono in corso i negoziati trattative, ma lui si ritiene ottimista sul fatto che non ci sarà comunque una spaccatura nel suo partito. Grazie Gerardo Pelosi, tutti questi collegamenti dagli Stati Uniti. Buona continuazione, buon rientro quando grazie rientrerai. Ciao Gerardo. Grazie a voi. E vedo tra l'altro che c'è un'estensione della dichiarazione della Valle dalle agenzie che dice: fino a qualche anno fa pensavo che Renzi potesse essere una risorsa per il paese, ma Renzi non ha mai lavorato, quindi non può parlare di lavoro come noi, secondo me ha fatto tilt. Questa è la dichiarazione completa di Della Valle, che potete continuare a commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso gli SMS. Dice un altro ascoltatore: Della Valle sembra che lavori solo lui, non è meno nobile chi lavora 18 ore per il paese di chi fa le scarpe, abbia un po' di umiltà e di rispetto. E poi invece Gianluca scrive: Renzi o Berluschino ha lavorato certo, ma nell'azienda del Papi solo che era l'unico messo in regola. Ognuno con la propria posizione, anche se bisogna dire che Della Valle ha proprio cambiato linea e posizione nei confronti di Renzi, perché all'inizio per diverso tempo lo ha appoggiato. Sarebbe interessante sapere esattamente qual è stata la molla che ha fatto scattare questo cambio di linea. Però adesso ci occupiamo di un altro argomento, ed è lo scontro tra De Magistris e i suoi ex colleghi magistrati. Allora, due giorni fa Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli, ex magistrato, è stato condannato dal Tribunale di Roma insieme al consulente informatico Gioacchino Genchi a 1 anno e 3 mesi di reclusione per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Why Not. Praticamente De Magistris, che al tempo dell'inchiesta era pubblico ministero a Catanzaro, era accusato di aver ottenuto illegittimamente i tabulati telefonici di alcuni parlamentari senza averne l'autorizzazione. Per lui e per Genchi quindi è stata decisa anche l'interdizione dai pubblici uffici per 1 anno con la condizionale. De Magistris si è infuriato, ha rigettato l'ipotesi di dimissioni da sindaco, ha detto che è vittima di un'ingiustizia, che contro di lui è stata emessa una sentenza politica. Siamo di fronte a uno Stato profondamente corrotto, ha detto quindi delle cose grosse, forti De Magistris in consiglio comunale a Napoli, ribadendo di essere uomo delle istituzioni, che non si dimetterà. Dice anzi: mi chiedono di dimettermi dopo questa condanna, ma guardandosi allo specchio, si riferisce ai giudici, e provando vergogna dovrebbero dimettersi questi giudici. E le parole di De Magistris sono state duramente criticate dall'Associazione Nazionale dei Magistrati. Così Rodolfo Sabelli, buonasera, presidente di Associazione Nazionale Magistrati. Buonasera a voi. Buonasera Sabelli. E quindi un vostro ex collega con cui oggi c'è stato un confronto piuttosto acceso. Abbiamo ascoltato parole molto gravi. Ovviamente nessuno contesta il diritto di De Magistris di criticare una sentenza, ma dire che i giudici dovrebbero vergognarsi e dimettersi vuol dire esprimere disprezzo nei confronti dei giudici, quindi disprezzo verso la giurisdizione. Questo francamente è inaccettabile, non solo da un uomo delle istituzioni, ma anche da chi ha esercitato la funzione giudiziaria. Sabelli, lei come commenta questa sentenza nei confronti di De Magistris? Guardi, noi nel merito della sentenza non entriamo. La legge Severino prevede per il sindaco, così come per i responsabili, coloro che hanno delle cariche negli enti locali, conseguenze che discendono da una sentenza ancora non definitiva. In questo caso parliamo di una sentenza di primo grado, ma qui non importa tanto se poi questo processo si concluderà alla fine con una condanna definitiva o con una assoluzione. Quel che occorre il rispetto nei confronti delle decisioni giudiziarie, quindi dichiarazioni di questo tipo spargono un senso veramente di disprezzo nei confronti della decisione, che è inaccettabile indipendentemente poi dalle responsabilità, che ovviamente poi saranno accertate solo alla fine del processuale. Sentiamo allora proprio alcune delle parole che già preannunciavo prima, dette da De Magistris. Qualcuno mi chiede che io mi dovrei dimettere perché una sentenza di questo tipo mi ha condannato. Ebbene, io la dico assumendomi ovviamente, qua non tirando la giunta in questa mia riflessione, ma la mia opinione personale, io credo che guardandosi allo specchio e provando vergogna quei giudici di quel tribunale si dovrebbero dimettere. Quindi nei prossimi mesi io credo che noi dobbiamo alzare il livello di scontro contro la nomenclatura di regime. Dobbiamo da Napoli, dalla storia personale di ognuno di noi, far capire che esistono altre donne e altri uomini all'interno delle istituzioni, ma che il sistema è profondamente marcio, profondamente corrutto e anche intriso di deviazioni pericolose. Quindi il sistema profondamente corrotto, Sabelli. Ma guardi, io penso che non sia accettabile ascoltare parole generiche. Ho ascoltato anche dei riferimenti a magistrati collusi, a magistrati corrotti, e quando si fanno affermazioni così gravi allora bisogna scendere più nel dettaglio. C'è una procura della Repubblica, si va alla procura della Repubblica e si denunciano i fatti, altrimenti si resta soltanto su un piano di così generico, che vuol dire soltanto spargere delle dichiarazioni che non fanno solo confusione, che offendono genericamente un'intera categoria, soprattutto una funzione costituzionale. Rodolfo Sabelli, poi lei citava appunto la legge Severino, in base alla quale dovrebbe essere sospeso, anche se è una sentenza di primo grado, dal suo ruolo per 18 mesi, così come era successo con Berlusconi, era stata applicata in quel caso, è stata applicata poche volte, quindi c'è un po' un problema di interpretazione. Però sentiamo Grasso oggi, Presidente del Senato, che cosa ha detto a proposito appunto della legge Severino. La legge Severino è una legge che va applicata, quindi è stata già applicata anche ad altri sindaci, penso che sia inevitabile che sia applicata, e poi naturalmente ci sarà il seguito dell'appello, dell'impugnazione, che potrà eventualmente dare un contorno definitivo alla vicenda. Avete sentito quindi Piero Grasso, Presidente del Senato, che cosa ha detto a questo proposito, ex magistrato. Credo che sia caduto Rodolfo Sabelli, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, ma adesso lo recuperiamo subito. Mi sembrava in una situazione un po' precaria, come possono essere molti ospiti e personaggi a quest'ora. Vi dicevo della legge Severino, che prevede appunto lo stop per 18 mesi. Le interpretazioni sono un po' complesse, proprio perché la legge è stata applicata poche volte. Però sentivamo, ecco, recuperato Rodolfo Sabelli, ecco. Prima sentivamo Grasso che ha detto la sospensione è inevitabile, dice, applicando la legge Severino non può che per l'incandidabilità, no? Per chi ha ricevuto condanne anche di primo grado a ruoli istituzionali. Sì. Bisogna distinguere la situazione del parlamentare da quella del sindaco, perché nel primo caso la legge richiede una sentenza definitiva di condanna, in questo caso invece la legge si accontenta, diciamo così, di una sentenza di primo grado che produce l'effetto della sospensione per un tempo fino a 18 mesi, in attesa poi delle fasi processuali successive. In questo caso la competenza a decidere gli effetti della sentenza di primo grado sono attribuite al prefetto, che dovrà valutare l'adozione del provvedimento di sospensione. Se De Magistris, come sembra molto determinato, non si dovesse dimettere, nella pratica che cosa potrebbe succedere, Sabelli? Ma io non entrerei nel merito di queste valutazioni, che, ripeto, lascerei alla competenza dell'autorità prefettizia. Comunque, per voi, insomma, la questione per il momento resta soprattutto legata al fatto che abbia detto, diceva, parole inaccettabili, insomma, nei confronti dei magistrati. Questo è il fatto più grave. Da un uomo delle istituzioni, da chi è stato magistrato, ci aspettiamo un atteggiamento completamente diverso, un atteggiamento di rispetto, non dichiarazioni così generiche e attacchi che offendono un'intera categoria. Ricordiamoci che i magistrati non sono solo bravi, corretti quando prendono delle decisioni che ci danno ragione. La ringrazio Rodolfo Sabelli, Presidente di ANM. Buona serata, grazie, buon lavoro. Grazie. E direi che a questo punto possiamo prenderci una pausa. Voi continuate a fare le vostre riflessioni, in particolare, vi dicevo, però potete scrivere anche su altre notizie, su questa dichiarazione forte che ha fatto, questo attacco forte che ha fatto da Della Valle nei confronti di Renzi, il quale ha detto fino a qualche tempo fa pensavo fosse una risorsa per il paese, invece Renzi non ha mai lavorato, quindi non può parlare di lavoro, e secondo me ha fatto tilt. 349-238-6666 per gli sms, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. F. perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, vedo un sacco di vostri messaggi, sia al 349-238-6666 e altri sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di questa dichiarazione di Della Valle che adesso vi faccio sentire proprio dalla sua viva voce. Per me è abbastanza imbarazzante discutere di Renzi, perché io Renzi lo conosco ovviamente da tanti anni. Fino a qualche mese fa pensavo che potesse veramente essere una risorsa per il Paese. Tutte le volte che ha chiesto di venirmi a trovare per farsi dare qualche consiglio, io con piacere, se stavo in Italia, l'ho sempre fatto, ma gli avevo dato altri consigli. Io a Renzi avevo detto che forse era opportuno far governare Letta e nel frattempo lui avrebbe dovuto, come responsabile del partito, farsi esperienze, farsi una squadra giusta che avrebbe portato domani al governo, farsi un'agenda internazionale, conoscere un mondo che, anche se uno gestisce la più bella città del mondo che è Firenze, è sicuramente molto diverso. Questo 8 e mezzo, quindi ha spiegato in modo più chiaro, più esteso, qual è il motivo che l'ha portato a dire una cosa così forte. Vedo i vostri messaggi, c'è un ascoltatore che dice sì, lo dice Della Valle con tutti i calli che ha sulle mani, poi un altro che dice quando Marchionne è super consulente di Renzi. Max da Como, scusate, scrive, ma quali problemi a Renzi, la stampa, i media, ma se non fate altro che incensarlo voi giornalisti, ma insomma mi sembra. E poi Andrea, ma di chi lavoro lo dà, non si preoccupa nessuno, se non si danno le condizioni che stimolino gli imprenditori, chi lo fa il lavoro, il Job Act? E adesso diamoci un po' di leggerezza, ogni tanto alterniamo anche, sapete che vi dicevo sono arrivati a Venezia George Clooney, tanto atteso, e la sua compagna, futura moglie, l'avvocata di origine libanese Amal, e diciamo la città è stata decisamente messa un po' sottosopra, in fermento, è arrivato un sacco di gente, fotografi, giornalisti, turisti, curiosi, eccetera. Iniziano i festeggiamenti da oggi e pare che per 3 giorni andranno avanti tra tutti i locali di lusso di Venezia, alloggeranno al Cipriani e pare che si sposino lunedì, anche se rimane ancora un mistero, perché sapete, per questi personaggi la data e il luogo precisi non si dicono mai, però voci sempre più autorevoli e attendibili dicono lunedì. Allora, poco prima della trasmissione ho provato a chiamare uno dei locali, dei ristoranti più prestigiosi, storici di Venezia, che si chiama Daivo, il proprietario Giovanni Fracassi, mi ha risposto così. Pronto? Giovanni? Sì? Buonasera, sono Roberta Giordano di Radio 24. Sì? Senta, mi hanno detto che Clooney, che oggi è sbarcato a Venezia, ha creato tutto un subbuglio insomma con la sua futura moglie, perché lì pare si sposi lunedì, queste sono le voci, Mi hanno detto che ha mangiato da voi tempo fa. A maggio, sì. 27 maggio. Quindi lei l'ha incontrato, ci ha parlato? Il 27 maggio. È venuto lui con la futura moglie, erano altre persone o erano loro in coppia e basta? Erano loro due con le guardie del corpo. E come li ha trovati, come li ha accolti lei, Giovanni? Ebbene. Insomma. Ebbene, spero. Ma è stata una sorpresa o l'avevano già avvisata parecchio tempo prima? Così a sorpresa sono venuti? Non so mai quando arrivo. Ah, ecco, giustamente per non tirarsi dietro fotografi, esatto, e gente curiosa. Aspettavo dei russi e è arrivato lui. Ah, americano, sono arrivati gli americani e l'avvocata di origine libanese, no, Amal. Senta, che cosa vi siete detti? Niente, saluti, le solite cose, dopo ho mangiato la cena. Che cosa mangia George Clooney? Da lei che cosa ha preferito mangiare? Fiori di zucca, i fichi con i gamberi, il taglioni col tartufo. Quindi fiori di zucca, i quelli fichi che facciamo noi sempre con il granchio, sì. I fichi e gamberi. Fichi e gamberi. Sì. Poi piacciono anche i funghi, il tartufo, è un buon gustaio. Un buon gustaio naturalmente, certo, quando si viene in Italia e poi al suo ristorante. Senta, e Amal invece ha preferito cose diverse o hanno preso cose simili? No, più o meno le stesse cose. Col vino come sono andati? Questa volta ho bevuto del prosecco e vino rosso. Del buon vino rosso, immagino, naturalmente, da voi, no? Sì, un'azienda qua del Veneto. Senta, invece come dolce? Dolci, piace le fragole all'aceto e lo zabaglione. Ma erano lì, cioè gli avete creato uno spazio riservato per loro? No, erano insieme con gli altri clienti. Come hanno reagito gli altri clienti? Gli altri non si sono neanche resi conto. Sono stati lì abbastanza defilati loro. Senta, la stessa sera avevo anche Lewis Hamilton. Ah, però il pilota. Dopo loro si sono parlati. avevo Lewis Hamilton con la fidanzata. Una serata da VIP? Quella sera sì. Che però il suo ristorante penso spesso, no, abbia personaggi. Ogni tanto. Un certo richiamo. Senta, ma quindi c'è molto movimento in questi giorni a Venezia, immagino, Giovanni. Sì, ma tanto casino, tanti giornalisti. Ma era un po' che non vedevate tutta questa gente, tutto questo subbuglio, vero? Bisogna sempre ringraziarlo per quello che ha fatto. In che senso? Nel senso che ha scelto Venezia per il giorno più bello della sua vita e dobbiamo ringraziarlo sempre, sempre. Quanta gente ci sarà in questo momento? Ci sarà poi un movimento anche di gondole, di taxi? 150 televisioni. Però? E più di 300 giornalisti, 400 giornalisti, cioè pensa a te. E poi ci saranno tutti curiosi, turisti, immagino, sperano di vedere. Ho fatto, non so, mi pare 20 interviste. Ma lei è riuscito a incontrarlo anche oggi o nei giorni più recenti? No, è appena arrivato. Immagino che in questi giorni poi il suo ristorante sarà sempre pieno, no, per questo evento. C'è un po' di movimento. Se lo vedesse adesso cosa gli direbbe a Clooney se lo dovesse incontrare? Bentornato e grazie. Ecco, e buon matrimonio. Esatto, esatto. La ringrazio, Giovanni. Niente, buona continuazione. Arrivederci. Grazie. Così, insomma, c'è chi se la passa anche bene ogni tanto, un po' di costume e un po' di leggerezza. Adesso c'è lo spazio europeo. Europa 24 notte. Torniamo sulle urne scozzesi che hanno consegnato qualche giorno fa il primo ministro inglese David Cameron una Gran Bretagna ancora unita e quindi all'Unione Europea, il suo principale alleato per evitare che il prossimo Parlamento di Westminster possa consentire alle richieste dei vari euroscettici inglesi. Intanto lo Scottish National Party raddoppia gli iscritti ed è pronto a spiegare a 1.600.000 scozzesi che hanno votato il sì, quindi per l'indipendenza, che essere parte invece dell'Unione Europea ha portato a un aumento del 55% degli scambi commerciali con gli altri Paesi membri e un forte aumento degli investimenti all'estero. Anche la City di Londra ringrazia. La Scozia ha votato, restiamo con la Gran Bretagna, ma se il premier inglese David Cameron ringrazia e non rischia più la poltrona, deve ora fare conti con le prossime elezioni, quelle in cui ci potrebbe essere una sorpresa proveniente proprio dalla Scozia. E già, perché lo Scottish National Party, portavoce del referendum sulla secessione, ha nel frattempo raddoppiato le adesioni. Molti sostenitori del Labour, che Edimburgo vanta da sempre uno dei più grandi bacini di consensi elettorali, si sono già uniti allo Scottish National, prima nella battaglia sul referendum per l'indipendenza e ora per quella corsa alle elezioni politiche inglesi in cui il partito di Alex Salmond e Nicola Sturgeon si prepara a trasformare il 1.600.000 sì in preferenze e seggi. I believe as strongly today as I did last week. Come spiega la vice premier scozzese Sturgeon, pronta a succedere a novembre al premier dimissionario Salmond, il sì alla secessione va di pari passo con un altrettanto convinto sì, quello sul mantenimento della Gran Bretagna nell'Unione Europea. Essere parte dell'UE ha portato a un aumento del 55% degli scambi commerciali con gli altri paesi, spiega Sturgeon, e un forte aumento degli investimenti dall'estero. E in una Scozia che non ha ottenuto la secessione e l'autonomia di gestire le risorse petrolifere dei mari del nord, si punta ora a non perdere quei pezzi di mercato europeo che vanno dalle esportazioni di whisky agli scambi energetici. Anche la City di Londra ringrazia. Well, the problems I can see now. Se si lasciasse l'Unione, Londra dovrebbe negoziare un accordo di libero scambio con l'UE e sottostare a una serie di regole senza più avere voce in capitolo sulla loro approvazione, mentre fuori dall'Europa dovrebbe siglare una lunga serie di accordi commerciali bilaterali, spiega un analista della City che negli anni ha visto crescere gli investimenti dall'estero. First drafts. Anche la CBI, la Confindustria inglese, sottolinea quanto l'economia britannica sia legata a doppio filo con l'Europa, contribuendo a far fare passi in avanti anche all'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Ecco allora che il referendum sull'indipendenza della Scozia ha già partorito un primo paradosso. Le urne scozzesi hanno consegnato al premier inglese Cameron una Gran Bretagna ancora unita e all'Unione Europea il suo principale alleato per evitare che il prossimo Parlamento di Westminster possa consentire alle richieste degli euroscettici inglesi. Non solo Nigel Farage, che definisce l'uscita dall'UE un obiettivo da perseguire fino in fondo, perfino Cameron e i suoi deputati conservatori dicono di voler far decidere i cittadini entro il 2017, proponendo un referendum. I welcome the decision of the Scottish people. Così è Bruxelles a coccolare una Scozia ancora inglese da considerare parte di una nazione, la Gran Bretagna, che pur mantenendo la sterlina è oggi uno dei partner fondamentali per l'Europa, come ha ricordato il presidente uscente della Commissione europea José Manuel Barroso subito dopo il referendum. The Scottish government and the Scottish people have repeatedly shown and reaffirmed their European commitment. We are also ready to engage in a constructive dialogue with the Scottish government in areas under its responsibility. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Edimburgo. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccomi qui, sono molti i vostri messaggi, ma vi riassumo prima velocemente le notizie perché abbiamo varie altre cose di cui parlare. Partiamo da Renzi che ha detto oggi da Detroit: faremo una vera riforma del lavoro, il reintegro crea lavoro di serie B. Marchionne lo appoggia entusiasta, dice ha delle idee chiare, intanto l'Acciaio oggi l'ha bacchettato, meno slogan, gli aveva detto, e più pensare più a interessi dei lavoratori. De Magistris contro tutti, non mollo, si dimettano i giudici, dice. Poi abbiamo sentito il presidente dell'associazione nazionale magistrati che ha parlato di dichiarazioni inaccettabili. E poi Londra che vota sì ai raid in Iraq, Cameron parla di una missione che potrebbe durare degli anni. Cluny e Amala a Venezia, tutto pronto per le nozze che dovrebbero essere lunedì. E poi abbiamo detto tablet, smartphone in aereo, è arrivato l'ok definitivo al loro utilizzo, mentre sbarca in Italia l'iPhone 6. È tempo di sapere che tempo fa, naturalmente con il colonnello Mario Giuliacci. Colonnello. Sì, buonasera Roberto. Ormai siamo in autunno inoltrato, cosa si può dire? Vabbè che forse c'è stato da mesi questo autunno. Non sì, ma diciamo che nonostante l'autunno teoricamente dovrebbe portare spesso nuvole e piogge, questo fine settimana è uno dei più belli di questi ultimi 30 giorni, degli ultimi due mesi, perché sarà tempo bello e soleggiato dalle Alpi alla Sicilia, temperature gradevoli, né troppo caldo né troppo freddo, ovunque superiore a 23-24 gradi, ma ovunque inferiore ai 30 gradi. Insomma, un fine settimana da godere fuori, anche fuori di casa, magari anche andando al mare, perché no, sicuramente anche andando in montagna, quindi tempo splendido ovunque. Ma un bagno te lo faresti tu, colonnello? Adesso, ma le acque, bisogna ricordare che le acque del mare raggiungono la massima temperatura proprio tra fine agosto e settembre. Certo, già adesso sono in fase calante, ma le temperature di adesso sono equivalenti a quelle temperature delle acque del mare, equivalente a quelle che avremmo avuto in giugno, grosso modo. Infatti, ecco. Perché agosto diciamo non è che ha riscaldato molto, neanche luglio. Quello è vero. Va bene colonnello, ovunque tu vada buon tempo a te, grazie colonnello. Grazie, Giuliacci Benton, saluto a te gli ascoltatori e ricordo per il resto delle informazioni sul tempo www.meteogiuliacci.it. Ciao Roberta, ciao. Ciao colonnello, ciao. Ancora un attimo sui vostri messaggi, stavo leggendo. Alessandra dice: l'Acciai pensa ai gravissimi ultimi eventi che trascinano la Chiesa di Roma sempre più nel fango. E poi invece sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Riccardo che dice: sono stanco di commentare, ci troviamo di nuovo con il sedere per terra. Marilena invece si affida a un adagio: chissà, fa chi no insegna o governa, a proposito di quello che ha detto della Valle che avete tanto commentato. Mentre Relishan dice che non serve essere un cuoco per capire se un cibo fa schifo, quindi commento senza senso quello di Della Valle. Ma adesso parliamo invece di tecnologia, di un oggetto del desiderio. Enrico Pagliarini, non sei tu l'oggetto del desiderio, almeno credo sia per ascoltatori, per alcuni ascoltatori, per altri non sarai. Ciao Enrico. Il nostro Enrico Pagliarini, tutti i sabati, vi ricordate, 2024, il sabato alle 15, parla di tecnologia in modo divulgativo. Enrico, questo iPhone 6, naturalmente ogni volta che viene annunciata l'uscita, crisi di panico, isteria, file, gente che mette la tenda tre giorni prima davanti al negozio, è arrivato anche in Italia. Sì, è un po', potremmo dire, per molti è un po' un rito, perché da quest'anno c'è la possibilità di prenotarlo online e andarlo a ritirare in negozio, quindi non ci sarebbe nessuna necessità di far la fila dalla notte precedente. Allora ricordiamo che l'iPhone 6, o meglio gli iPhone 6, perché sono due, uno da 4 e 7 pollici, uno da 5,5 pollici, molto gigante, tant'è che si chiama iPhone 6 Plus. Allora, ricordiamo che sono disponibili nei mercati, nel mercato italiano da questa mattina. L'esordio è stato la settimana scorsa negli Stati Uniti e in altri mercati, per l'Italia e altri 21 paesi si è dovuto aspettare un po' di più. Ci sono state le solite file negli Apple Store, nei negozi che vendono questi telefoni, però ripeto, basta prenotarlo o bastava andarci alle 11 di mattina o oggi pomeriggio e nessuna fila. Vedi, a saperlo, con quanta fatica e quanto tempo risparmiato. Senti, ma quindi quello più grande praticamente è un tablet, diventano sempre più grandi, prima si tendeva a farli sempre più piccoli, adesso diventano dei quaderni praticamente, sì, dei quadri. Questa in effetti è una tendenza, soprattutto i produttori asiatici, coreani e cinesi hanno cominciato, quindi di allargare sempre di più il display ed effettivamente fare diventare alcuni smartphone molto simili a tablet, tant'è che esiste un modo per definirli che è phablet, che è un mix tra smartphone e tablet. Ed effettivamente questo da 5,5 pollici è molto grosso. E poi diventa difficile anche portarselo dietro, specie per gli uomini, tanti che non si portano le borse neanche a tracollo. Dove lo mettono? Questa è una bella domanda, magari nella tasca della giacca oppure nello zainetto. Che ne so. Bisogna portarsi il zainetto, qui qualcosa bisogna portarsi. Però pare che questo iPhone 6 Plus abbia avuto molto successo, tant'è che tra i due, adesso aspetteremo di conoscere i dati di vendita nei prossimi giorni, però pare che sia stato preferito tra i due. Quindi, quello piccolo o quello grande? Non ho capito, scusa Enrico. Quello grande. Sì, molti apprezzano questi smartphone sempre più ampi, che era una delle critiche che veniva fatta all'Apple fino al modello precedente, perché era, rispetto a molti competitor, rispetto a molti concorrenti, molto piccolino rispetto appunto ad altri produttori che si erano un po' allargati. Quindi, Enrico, abbiamo ancora 40 secondi, dimmi qual è la caratteristica migliore di questi iPhone 6, bisognava arrivare al sesto. Allora, oltre a schermi un po' più grandi, direi che la caratteristica forse più interessante è che entrambi hanno questa possibilità di fare molte cose e speriamo magari il prossimo anno anche Anche il pollo con patate? Abacchio con pistacchio? Esattamente. Va bene. Pronta digitale come metodo di autenticazione dell'utente. Bene. Enrico Paglierini, domani come sempre il sabato alle 15 con 2024. Grazie Enrico. Grazie a voi. So che tu te li recupererai da qualche parte, appassionato. Noi ci sentiamo dopo.